col capello dritto in testa e lo sguardo a pugnaletto se ne va. Monta in tram e aspetta al varco chi la sfiorerà. E con la spunta lo metto, c'è cascato, zà. Una guardata, una bruciata, quello è corco e non ci prova più. E quindi 87.9 sempre, Radio Onda Rossa, da Via dei Volsci 56, se volete venirci a trovare, noi siamo qua, iniziamo a parlare con le compagne del comitato per Pinar Zelek. La radio ha già nel corso delle scorse settimane parlato di Pinar Zelek, questa attivista femminista, sociologa, attivista dei diritti umani, ma in particolare perseguitata per la sua vicinanza, per quanto riguarda i suoi studi, ma immagino anche per quanto riguarda la conoscenza del suo paese, cioè la Turchia, della popolazione curda. Sappiamo insomma che la popolazione curda, come in Turchia, viene perseguitata, come tante cosiddette minoranze, che poi minoranze sono diventate, ma non sono certo nate minoranze, in alcuni paesi vengono perseguitate per quanto riguarda la lingua, la cultura, la possibilità di avere rappresentanze politiche. Addirittura il PKK, che è il partito insomma dei lavoratori curdi, è stato nel tempo considerato un partito terrorista, noi ci mettiamo le dovute di virgolette, e quindi considerato illegale. Il suo massimo rappresentante, che Öcalan, l'abbiamo ospitato anche in Italia nel 99, l'abbiamo anche tradito tra virgolette in quanto consegnato poi alla Turchia, e quindi è in carcere, mi sembra ormai insomma da più di 10 anni, da 11-12 anni in quest'isola, dove non può ricevere minimamente visite e nient'altro, solo raramente la visita dell'avvocato. Quindi diciamo che chi fa attività politica in Turchia si trova a dover avere un rapporto con quella che è la persecuzione che lo Stato turco ha nei confronti della popolazione curda, e in questo appunto Pinar Zelek evidentemente ha usato un po' troppo per una donna, soprattutto per una donna turca in particolare. Quindi ci facciamo innanzitutto raccontare la sua storia e come si è arrivate poi a questo processo, ennesimo processo che c'è stato il 9 febbraio scorso. Buongiorno. Buongiorno a tutte e a tutti. Innanzitutto partiamo dall'attualità, e cioè dal fatto che 2 settimane fa, il 9 febbraio 2011, c'è stata per la terza volta un processo in cui Pinar è stata assolta. E la prima volta è stata assolta nel 2006, la seconda nel 2008, la terza nel 2011, ed è stata proclamata la sua innocenza rispetto a delle accuse di terrorismo, in cui veniva additata come la mandante di un attentato che in realtà non è stato poi considerato come tale, perché all'inizio si parlava di fuga di gas e non di una bomba che è stata messa nel 98 nel mercato delle spezie di Istanbul. E nonostante la terza assoluzione da parte della Corte d'Assise, 2 giorni dopo il Procuratore della Repubblica, quindi la scorsa settimana, ha deciso di continuare l'accanimento giudiziario contro Pinar Zelek e di rinviare alla Corte di Cassazione per l'ennesima volta il processo. Questo quindi è un vero e proprio accanimento che non è più soltanto giuridico, ma anche politico, rispetto alla sua figura di ricercatrice, attivista dei diritti umani, che la vede sempre schierata con le minoranze, con i bambini di strada, con le transessuali, con tutti coloro che vivono ai margini della società, oltre che la questione curda che hai ben spiegato prima. E inoltre è diventata un po' il bersaglio anche per scoraggiare tutta quella parte di intellettuali, ricercatori e ricercatrici che si stavano interessando alla questione e che disturbavano un po' quelle che erano le istituzioni e le prese di posizione del governo turco. Diciamo che in Turchia, insomma, lo sappiamo, c'è una grossa persecuzione a livello del Partito Comunista, non soltanto dei curdi, ma anche a livello proprio governativo, su tutto quello che è stato la storia del Partito Comunista, o comunque dei comunisti o dei socialisti in Turchia, tanto che molta delle l'emigrazione poi verso la Germania è stata anche un'emigrazione molto politica, oltre che semplicemente, no, per andare in cerca di lavoro. In questo, insomma, poi la Turchia non ha mai, per non parlare poi di tutta la questione dell'Armenia o della popolazione armena, che per cui, diciamo, raccontateci un po' anche bene Pinar chi è, cosa ha fatto. Diciamo, è una donna della mia età, sì. Questo, insomma, allora, almeno per inquadrare. Pinar noi la conosciamo perché è una nostra compagna di Amarghi. Amarghi è una rete praticamente di collettivi femministi che c'è in Turchia, è stata anche una delle fondatrici. Il primo gruppo si è formato appunto a Istanbul. Lei è una sociologa e, come stiamo dicendo già da un po', si occupa praticamente di tutte le minoranze, i curdi, transessuali, ma le stesse donne. E appunto, sia per studio sia per l'impegno politico, perché poi nel suo caso le due cose vanno insieme, si è trovata ad andare proprio sul posto a fare interviste ai capi curdi, e praticamente questo è il motivo, come ci hanno spiegato dal vivo le compagne turche, che per il quale subisce questo accanimento, perché lei ha raccolto del materiale molto importante e compromettente, ovviamente, per il governo, per lo Stato turco, e per questa è stata arrestata, insomma. È stata arrestata con la scusa, da qua incomincia nel 97 tutta la sua avventura, anzi nel 98, perché nel 97 è stato l'anno in cui lei è andata là a fare queste interviste, e nel 98 è stata arrestata a luglio, non sapendo neanche il perché. Il 9 luglio c'era stata questa esplosione in un bazar delle spezie, e due giorni dopo lei è stata arrestata. Non gli sono state fatte nessun tipo di domande, non c'è stato un interrogatorio, non le hanno detto il perché. Ma questo aneddoto che raccontato sempre dalle compagne, che lei ha scoperto il perché stando in carcere, guardando la televisione. Ha visto il servizio su di lei, dove passava appunto come terrorista, come quella che aveva messo la bomba, e quasi quasi anche lei facente parte dei capi curdi, e quindi l'ha capito qual era il motivo. Ovviamente non solo, in realtà non c'è stato nessun atto, non c'è stata nessuna bomba, perché poi non era neanche vero che c'è stata un'azione curda di questo tipo, ma era appunto una fuga di gas. Non solo questo, però praticamente il motivo grosso alla fine è che si trascina negli anni, e che lei appunto ha del materiale, e le sue ricerche sono scomode al governo turco. In questo caso c'è stata un'escalation praticamente di arroganza da parte dello stesso governo. Appunto nel 98 è incominciato tutto questo iter giudiziario. Dai rapporti della polizia era già chiaro fin dall'inizio, in realtà, che non si trattava di una bomba. Proprio c'è scritto nei rapporti: non è una bomba, non è una bomba. E magicamente la polizia stessa, nel giro di due anni, ha cambiato questa versione, spingendo molto sul fatto che era stata messa una bomba, e per di più da quasi subito è uscito l'unica testimonianza praticamente che incolpa Pinar Selek è del 22 dicembre del 98, di quest'uomo che dice che è stato che lui è andato a mettere la bomba insieme a Pinar, e che lui stesso, dopo due o tre giorni dalla testimonianza fatta alla polizia, ha retrattato dicendo che era stato torturato, così come del resto è stata torturata Pinar nei due anni e mezzo che ha fatto di carcere, fino al 2000, insomma, dal 98 al 2000. Quindi, vabbè, le vicende la vedono poi assolta nel 2000, dopo due anni e mezzo di carcere, e subito dopo il ministro degli affari interni e il dipartimento di polizia della città di Istanbul invece fanno delle pressioni attraverso lettere in cui chiedono la riapertura di questo processo, perché il verdetto poi di fatto non c'era stato. e, nonostante i report e i rapporti testimoniassero che fosse stata una vera e propria fuga di gas in cui c'era presente la, una particella che è la nitrocellulosa, che si può trovare in tanti materiali, non necessariamente solo nelle bombe. Ok, mandiamo un momento di pausa e poi riprendiamo il racconto. Et à quand la fin de toute forme de distinction sociale, à quand la fin de toute forme de ségrégation raciale, à quand la fin de toute forme de discrimination femme, c'est pour Nana Blanc, acteur, chaîne de garde, cité Mokia, MLM, pour une nouvelle ère. Oyez, oyez, peuple femme, à vos armes, tapez du poing sur la table, il est temps de changer pour une nouvelle ère. Oyez, oyez, peuple femme, à vos armes, levez le poing en l'air et séchez vos larmes. Oyez, oyez, peuple femme, à vos armes, tapez du poing sur la table, il est temps de changer pour une nouvelle ère. Oyez, oyez, peuple femme, à vos armes, levez le poing en l'air et séchez vos larmes. Et après le mouvement de libération des femmes, PNLM, LF 2000 encore s'unir pour un nouveau combat, un nouveau discours, un nouveau débat. Ah, comme des forcenés, à vol on force les portes, on est prêt à négocier la parité à tous les niveaux, dans toutes les classes sociales, la mixité, l'égalité des salaires. Les lois changent mais les mentalités stagnent. Convaincus, je revendique des principes ou des ratères ou des histoires de cul. Fini les années 75, les manifestations portées par des intellos. Un coup de chapeau, merci encore pour ces guerriers de France. Mais c'est pas fini pour ces filles 20 ans, jeunes et jolies, issues d'immigration et des quartiers populaires. Pour elles, je continue, je m'avance avec celles qui veulent, je me bats pour une nouvelle ère. Me viens tout unir pour le même combat. Oyez, oyez, peuple femme, à vos armes, tapez du poing sur la table, il est temps de changer pour une nouvelle ère. Oyez, oyez, peuple femme, à vos armes, levez le poing en l'air et séchez vos larmes. Oyez, oyez, peuple femme, à vos armes, tapez du poing sur la table, il est temps de changer pour une nouvelle ère. Oyez, oyez, peuple femme, à vos armes, levez le poing en l'air et séchez vos larmes. MLF, nouvelle ère, armée qui serait une loi virulente. E quindi diciamo che l'accanimento giudiziario nei confronti di Pinar Selek continua. Nel 2006 c'è un altro processo, processo durante il quale poi casomai in futuro andremo a leggere anche quella che è stata la sua autodifesa proprio nei confronti di, per difendere se stessa. Mi dicevi insomma in questo bellissimo poi discorso che lei fece di autodifesa. E poi si arriva al 2011, lo scorso 9 febbraio c'è stata l'ennesima udienza. Diciamo che c'è stata una solidarietà internazionale grossissima. Sì, sì, infatti io sono andata come osservatrice internazionale perché questo ci è stato chiesto da Amarghi e eravamo in tantissimi, diciamo che eravamo un centinaio di persone da fuori e adesso magari vi dico anche chi eravamo, perché abbiamo proprio partecipato al processo. E già la sera prima ci siamo viste anche per presentarci un po', per conoscerci chi eravamo, e io mi sono un po' appuntata, diciamo, tutte le organizzazioni che c'erano, perché bisogna dire che Pinar ha una capacità alchemica di mettere insieme persone molto diverse, questa è una cosa molto bella, e lì c'erano praticamente rappresentanti ultra istituzionali, comitati di supporto, femministe, lesbiche, trans, punk, gente molto diversa insomma, che era praticamente tutta allo stesso livello in questa situazione di diciamo di contributo, di solidarietà lì, diciamo, quelli che hanno, perché poi la mattina del processo del 9 c'è stata anche una conferenza stampa davanti al tribunale hanno parlato diverse associazioni davanti a tutti i media del paese, perché poi questo caso è molto seguito in realtà in Turchia. Ci sono stati innumerevoli telegiornali dopo il processo, il giorno del processo c'erano, adesso vi faccio un pochino di lista della spesa perché comunque può essere interessante. Sì, sì. Allora c'era una ONG di Azione Civile Mediterranea Mediterranea del Parlamento, che stanno nel Parlamento europeo e che ha creato proprio un network sul caso di Pinar. Poi c'era anche il PEN internazionale, che è un'associazione anche appunto anche questa internazionale a sostegno di giornalisti e scrittori perseguitati in tutto il mondo, e loro per esempio hanno proprio fatto come alcuni sanno una petizione che al 9 febbraio aveva raggiunto 60.000 firme. Poi vi daremo il sito, poi lo diciamo, sì, il sito dove andare a firmare, perché comunque continua naturalmente questa raccolta. Poi c'era anche un'associazione di Ricercatori Senza Frontiere, che è un'associazione di sociologi internazionale per la libertà di ricerca, che è proprio nata anche questa diciamo a ridosso del caso di Pinar, diciamo lei è stato un po' l'artefice per la nascita di questa associazione, e anche un'associazione per l'obiezione di coscienza. Poi c'era il Partito Verde in Turchia, c'era la Federazione Internazionale dei Diritti Umani, una delegazione dell'Unione Europea che segue i movimenti politici di donne in Turchia, e anche un'associazione di avvocati internazionale che voleva appunto osservare i giudici. C'era l'editrice di Pinar Selek, con perché lei... diciamo, ricordiamo che Pinar scrive anche un sacco Pinar di libri, scrive, nonché Fiamme, sì, per bambini. Scrive, sì, un sacco di testi differenti, molto interessanti. Poi piano piano, magari col tempo, riusciremo anche a tradurre un po' di cose, magari non i testi, però i documenti. E infatti invitiamo poi donne turche o che conoscono il turco a mettersi in contatto con noi, poi daremo anche il contatto se vogliono fare delle traduzioni di Pinar, sarebbe meglio chiaramente direttamente dal turco all'italiano, perché sennò facciamo 10 passaggi. E poi c'era anche un'associazione dei diritti umani, GLBT, e poi c'erano tutti i collettivi, i comitati, diciamo era un po' la stessa cosa, i comitati di supporto a Pinar di Francia, Germania e Italia, che sono i tre paesi che ad oggi per ora sta sostenendo Pinar, anche se diciamo si allarga un po' a macchia d'olio questa creazione di comitati, perché noi stesse, Comitato Italia, siamo molto giovani, cioè un comitato che è nato da pochissimo tempo, sì, un mese e mezzo. Poi racconteremo anche questo, spero di non dimenticare di allacciarmi, però volevo un po' raccontare lì. Praticamente c'è stata questa conferenza stampa e poi siamo riusciti ad entrare nell'aula del processo, che era una stanza a mio parere molto piccola, forse non si aspettavano neanche questo afflusso. Siamo entrati in 200, stavamo come le sardine in scatola con bottigliette d'acqua per ripiarci, perché veramente era una cosa incredibile. Forse era fatta apposta, forse era fatta apposta, però noi ci stavamo lo stesso 200 dentro. Abbiamo ascoltato, diciamo, l'esposizione degli avvocati, e possiamo anche raccontare che Pinar lì in Turchia è difesa da una quarantina di avvocati. Diciamo che Pinar non si è presentata al processo. No, non era Pinar presente. Non c'era, chiaramente, perché diciamo rischiava di non uscire più praticamente. Esattamente, quindi chiaramente lei non è venuta, vive a Berlino. Appunto, in realtà per ogni frase che diciamo ci sono diversi allacci di discorsi che si possono fare, perché Pinar sta a Berlino sostenuta proprio dal PEN, che gli ha dato una borsa per poter vivere lì e anche un appartamento, una casa, perché Pinar non ha voluto fare richiesta, sì, di rifugiata politica. Sì. Sì, le compagne turche ci stavano proprio spiegando questa cosa, che Pinar rifiuta lo stato di rifugiata perché in qualche modo è ammettere l'autorità dello Stato di riconoscerla sia come terrorista e responsabile di un attentato, sia come, come dire, colui che è come, cioè, in realtà è così, che ha il potere di decidere della sua vita e dell'entrata e dell'uscita dal suo stato, dalla Turchia, e ovviamente anche della limitazione del suo lavoro, perché poi alla fine è questo il nocciolo della questione, cioè non vogliono che lei faccia le sue ricerche. Certo, e quindi diciamo lì intanto prima del processo c'è stata una conferenza stampa davanti a tutti i media e ognuno ha letto delle cose e noi comitati abbiamo letto qualche rigo che adesso vi diremo perché tanto veramente è un minuto, stavamo tutte lì insieme e questo appello è stato, questo piccolo comunicato è stato letto in francese, in inglese, in turco, in italiano e in tedesco. E dice questo, ve lo leggo, noi siamo delle delegazioni dei collettivi di solidarietà con Pinar Selek in Italia, Francia e Germania. Ci siamo impegnate e impegnati per dare supporto a Pinar Selek perché è un'attivista femminista antimilitarista che non smette di lottare per la pace e la giustizia per tutte e tutti. Se oggi... Scusate, se oggi è lei che deve far fronte a un accanimento politico e giudiziario, potrebbe essere chiunque di noi osi ribellarsi contro le ingiustizie. Noi continueremo ad informare, mobilitarci e organizzare il sostegno fino a quando Pinar Selek esca da questo incubo e possa riprendere le sue attività. Pinar Selek non è sola. E devo dire che questa cosa, che è stato letto in diverse lingue, ha fatto un po' il giro dei GR, delle televisioni. Un po' di tutto il mondo. Sembrava un po' particolare abbastanza questa cosa. Vabbè, comunque poi c'è stato questo, si è svolto una parte del processo, essendo tutti così serrati, a un certo punto hanno deciso di fare, hanno deciso di fare una piccola pausa, siamo tutti usciti fuori e prima di rientrare evidentemente la corte si era già riunita senza avvertire, forse che perché pure loro non respiravano con tutte quelle presenze, e quindi noi abbiamo ricevuto il verdetto fuori senza neanche riuscire a rientrare di nuovo dentro, in cui Pinar veniva assolta. Questo ha scatenato una gioia, devo dire, incontenibile. Messe internazionali subito. Sì, è vero. E, vabbè, lì eravamo fuori dal tribunale, eravamo circa 500. E vi potete immaginare 500 che esultano di gioia, devo dire emozionati. Davanti a un tribunale. Sì, canti, balli, pianti, cioè di tutto proprio. È stata una cosa, diciamo, incredibile, una felicità incredibile. Poi la sera c'è stata anche una grande festa nella sede di Amarghi, dove si è continuato a festeggiare. E poi, diciamo, per concludere questo racconto, io personalmente dopo due giorni sono tornata a Roma e diciamo appena sei atterrata, appena sono atterrata è arrivato questo SMS dove ci informavano che invece era stata diciamo rifiutata questa terza assoluzione, quindi diciamo si ricomincia, la lotta è lunga. Questo per quanto riguarda questa parte qui. Vabbè, farei una piccola pausa. No, no, no. And you are uniforms too. I'm a prisoner, you're a prisoner too, Mr. Jailer. Oh, I have fears, you have fears too. I'll die, but yourself will die too. Life is beautiful, don't you think so too, Mr. Jailer? Talking to you, jailer. Stop calling me a prisoner. Let him is without sin be the first to cast the stone, Mr. Jailer. Mr. Jailer, man, you suppress all my strategies. You oppress, wow, wow, every every part of me. What you don't know, you're a victim to Mr. Jailer. Oh, you don't care about my point of view. If I die, another will work for you. Ancora 87.9, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Stiamo parlando di Pinar Zelek, stiamo parlando del 9 febbraio scorso, dove c'è stata l'ennesima sentenza di assoluzione nei suoi confronti, che però poi due giorni dopo, senza neanche assaporare la gioia di questa assoluzione, il procuratore della Repubblica ha chiesto di nuovo il rinvio a giudizio, e si è passati da quella che era la corte d'assise alla corte di Cassazione. Quindi ci sarà un nuovo procedimento ad un altro livello giudiziario, un nuovo accanimento, e quindi sarà di nuovo a giudizio a breve. A breve, sapete delle date, quando allora, ci sarà? No, adesso ancora non abbiamo avuto notizie di Amarghi di questo, però quello che volevo specificare è che poi dopo questo processo che ci sarà nuovamente, dovrà per forza tornare nuovamente, diciamo, a questa corte che l'ha già assolta tre volte, comunque di nuovo dopo. Quindi, cioè, è proprio chiaro che non vogliono che Pinar metta piede lungamente in Turchia. Sì, sì. Perché Pinar si stava preparando a tornare, però diciamo che indubbiamente, insomma, il fatto che questa, insomma, una mia riflessione, il fatto che ci sia tutta questa solidarietà internazionale, oggettivamente fa sì che i media turchi ne debbano parlare, cosa esatto. Che normalmente non è che avviene in Turchia, esatto. Immagino che infatti tutti quelli che siano i perseguitati eccetera vengono o mandati via o comunque si cerca di cadere nel silenzio, per cui è ovvio che non vogliono assolverla, perché anche l'assoluzione comporterebbe il fatto che esatto. Lei potrebbe continuare a scrivere, a stare nel suo paese, a parlare, a fare attività politica. Ovviamente il tenerla così in una sospensione giudiziaria fa sì che lei comunque viva da non so come chiamarlo in questo caso, perché una non è emigrata, cioè è proprio comunque quasi da espulsa, sì. No? E anche sotto stress costante, che psicologicamente questo ti distrugge, perché se tu stai sotto pressione per tanti anni, certo, conosciamo bene anche queste pratiche, insomma, anche in Italia. Esatto. No, a questo riguardo io volevo aggiungere scusa un attimo, questo microfono fa un po' di grinza, quindi è meglio se lo tieni fermo. Quindi tienilo lì e va bene, parlo con questo. Va bene. Che gli avvocati di Pinar stanno cercando di andare a prendere nella storia della giustizia turca, diciamo, se così la possiamo chiamare, un caso simile dove appunto qualcuno viene assolta più volte e poi di nuovo si riprende da capo. Adesso io non è che voglio andare troppo ad entrarmi in una cosa del genere, perché sinceramente, oltre a non saperne niente, non vi sto qua a raccontare la mia poca fiducia in qualsiasi tribunale. No, vabbè, diciamo che anche Radio Rossa la condivide pienamente, esatto, ovviamente. Certo. Non è che... Però appunto quello che chiedono le compagne e che chiediamo tutte è che alla fine si riconosca a Pinar un'assoluzione totale da queste accuse, e che possa tornare in Turchia e continuare il suo lavoro e la sua attività politica. Diciamo che dalle donne che fanno parte, alle femministe che fanno parte, ad Amarghi si dice, giusto? Sì. È nato un appello, diciamo sì, anche internazionale, proprio rivolto alle donne, alle femministe, alle lesbiche, eccetera. Quindi sono nati in diversi paesi, in particolare abbiamo detto già prima Italia, Germania e Francia, principalmente, insomma, immagino la Francia, come al solito, su molte cose sta avanti, e, dei diversi comitati di solidarietà. Proprio di donne. Insomma, dimmi, raccontatemi un po' come nascono questi comitati e come. Sì, allora, intanto diciamo, noi appunto, come dicevamo prima, siamo proprio appena nate, no? Proprio a ridosso, diciamo, del processo. Perché? Perché Amarghi, che in realtà non è un collettivo, ma è una rete dello stesso collettivo che è presente in diverse città della Turchia, loro sono delle attiviste compagne nostre appunto di questa rete femminista internazionale, e a dicembre le abbiamo incontrate, e quindi loro hanno volevi dire qualcosa? Scusa, no. Sì, le abbiamo incontrate e ci hanno chiesto appunto supporto. Loro in realtà avevano, anche noi abbiamo fatto girare in generale, anche se non esisteva il comitato, abbiamo fatto girare un appello tradotto in italiano che avevano diffuso già loro l'anno scorso, nel 2010. A dicembre hanno richiesto di nuovo un sostegno più forte, proprio perché vicino al 9 febbraio, quindi al processo, e di conseguenza noi che stavamo in questo incontro ci siamo guardate in faccia, abbiamo detto vabbè, anche noi dobbiamo fare la nostra parte, perché altri comitati esistono da più tempo, come per esempio il comitato francese, che è un comitato che a noi ci ha dato molto supporto inizialmente per aiutarci anche a nascere, e poi dopo daremo anche la nostra linea diretta, direi praticamente. Esattamente, la nostra linea diretta. Dopo daremo anche l'indirizzo del loro sito, dove è sempre aggiornato, veramente sempre alle ultime novità, e diciamo anche noi poi quello che noi stiamo facendo, appunto, siamo nate un mese e mezzo fa, quello che abbiamo fatto è stato diffondere l'informazione e cercare di capire che tipo di supporto potevamo dare, e per esempio una piccola cosa è stata andare lì come osservatrice internazionale, che comunque insomma fai pure numero, fai pure impressione, perché vieni da altri paesi, insomma in qualche modo, cioè non è facile gestirsela per questi qua. E quello che invece stiamo facendo adesso è cercare di capire come continuare questo sostegno, visto che la lotta sarà lunga. Stiamo cercando di tradurre alcuni scritti di Pinar, infatti dopo vi proporremo delle piccole cose, quindi di tradurre i suoi materiali e di metterli in un blog che stiamo per aprire, poi daremo informazione anche di questo blog, dove man mano potremo mettere tutte le informazioni anche noi. Diciamo, questo per ora stiamo facendo, non è tantissimo, però essendo una cosa di lunga durata, diciamo, mi sembra già tantissimo invece. Vai. No, io volevo semplicemente aggiungere che Pinar è stata tra le fondatrici de Amargui, di questa associazione, di questa rete di donne, e volevo che ci raccontassi qual era proprio il significato della parola Amargui, che è molto bello. Guarda, infatti la domanda casca proprio a fagiolo, perché anch'io ero molto incuriosita di capire che significasse. Io poi lo pronuncio Amargui, Amargui, ma è la stessa cosa. E le compagne ci hanno spiegato che è una parola sumera, di origine sumera, che ha due significati. Uno, tornare alla madre, e l'altro libertà. E perché ammazza, che doppio significato intriso di significato a sua volta. Sì, Jack, infatti, non la possa avere. Perché praticamente nella civiltà sumera, diciamo, loro hanno, i sumeri hanno creato il primo stato, nel senso proprio uno stato che faceva leggi di governo, diciamo, e la madre era, le persone a buffo, scusa. E la madre rappresentava le leggi della natura, quindi tornare alla madre e quindi non stare con lo stato. Allora, questo, parliamo anche di Amargui un po'. Si hanno delle, insomma, mi piacerebbe, visto che della Turchia si sa veramente poco, dei collettivi sì. femministi, o comunque delle donne che lavorano, ancora di meno, quindi raccontateci un po'. Sì, sono delle attiviste, appunto, si occupano, cioè alla fine sono delle compagne, fanno delle cose molto simili a noi in realtà. Si occupano di aperture di cose come sportelli antiviolenza, centri antiviolenza, aperto cosine, infatti, sì, proprio cosine. Non fate cosine. Queste cosine che fai nel weekend, no? nel tempo libero, come hobby. E appunto, ma in generale anche qua di tutte le minoranze, perché penso che anche le compagne si occupano un po' di tutte le cose che si occupa Pinar, sia di transessuali, che ad esempio la questione antimilitarista per loro è molto forte. Sì. Tant'è che nella canzoncina, faccio un piccolo anticipo la chicca di chiusura, che è la canzoncina che vi faremo ascoltare, che hanno fatto le compagne turche e le compagne francesi insieme. C'è questa frase che appunto è per la pace, e riprende una frase del governo invece che spinge alla guerra, no? Lo diciamo che tutte le canzoni di questa trasmissione sono proprio prese da un CD che il Comitato di Francia ha preparato proprio per in supporto a Pinar. A Pinar, sì. E noi ci stiamo occupando della diffusione qua da noi, insomma. Ad esempio, anche il lavoro di Pinar, per citare uno dei tanti lavori di Pinar sull'antimilitarismo, si occupa proprio di questo, di come la violenza come metodo perpetuata dal governo e dall'esercito, chi ne paga prima le conseguenze ovviamente sono le donne, i bambini e tutti i soggetti che lo Stato stesso vuole continuare a mantenere su un piano subordinato, diciamo. Quindi insomma Amarghi si occupa di questo, come dicevamo prima, la parola stessa lo dice, è un qualcosa che va contro lo Stato, contro l'impostazione statale, per applicare questa un metodo diverso, che è quello della sorellanza, che poi alla fine è la cosa che, come in uno slogan che abbiamo fatto, la sorellanza è un'arma, Pinar libera, è quello che nel quale insomma noi crediamo, per il quale ci impegniamo. Scusate, la sto facendo un po' troppo ideologica. No, io volevo solo aggiungere una piccolissima cosa, perché come dicevamo prima, Amarghi è una rete dello stesso collettivo, no? Una rete che si estende per tutta la Turchia, e è stata creata come cooperativa di femministe lesbiche e trans. Esatto. Insomma, è anche importante dirlo. E sì, le attività sono veramente innumerevoli, sembrano instancabili. Diciamo che più c'è repressione di uno Stato, e sembra che più ti dà come dire, la forza, sì, di combattere proprio, perché loro sono veramente molto forti, molto. Allora aspetteremo che le portate in Italia, sì, perché un incontro con loro insomma ci piacerebbe. Diciamo che anche Pinar è stata in Italia nel 2007, mi dicevate, quindi insomma non è che non c'è stato contatto prima con le compagne turche, insomma sono anni, però sarebbe interessante in questo momento, sì, in cui insomma, ci sono anche tutti questi sconvolgimenti in un'area, in quell'area, insomma la Turchia è abbastanza strategica per parte del mondo, insomma sarebbe interessante capire cosa sta succedendo in Turchia, sì, e come si sta trasformando anche il paese. E torno un attimino indietro, perché mi sono dimenticata di dire che Amarghi fa anche una rivista che è distribuita in tutta la Turchia, che si chiama proprio Amarghi anche, quindi fanno anche questo. Che hanno la libreria a Istanbul. Hanno una libreria femminista anche a Istanbul, che è la prima libreria femminista di Turchia, ad ora sembra pure anche l'unica. Quindi fanno un lavoro enorme, enorme. Ma invece a proposito di quello che dicevi tu prima, noi ci abbiamo qui una piccola traduzione, e non so se vogliamo se abbiamo stancato le orecchie delle nostre ascoltatrici e ascoltatori, e vogliamo fare una piccola pausa o andiamo. Ma io direi leggiamo e poi ci facciamo la pausa per andare verso le conclusioni. Allora, siate forti e resistete. Allora, praticamente questo che vi stiamo per leggere è allora, è successo questo, che nel 2003 il ministro turco dell'educazione nazionale ha inviato il 14 aprile appunto del 2003 a tutte le scuole elementari e medie di Turchia un documento dove domandava l'organizzazione dai direttori di queste strutture, di queste scuole, di conferenze, di testimonianze, attestando che la Turchia Turchia non ha mai sterminato le sue minoranze. Questo, la Turchia ci prova, insomma, sempre. Non è finito qui, la chicca è perché lui domanda in particolare agli alunni di redigere dei temi sull'argomento della lotta contro le accuse di genocidio. Certo. Allora Pinar si è finta, diciamo, ricordiamo, stiamo parlando di un tema a scuola, un tema a scuola, un tema nelle scuole elementari e medie, a tutte le scuole elementari e medie è stato imposto di fare questo tema, tant'è che proprio la Lega Nord più o meno tant'è che Pinar lo chiama proprio un tema imposto. C'è questo titolo e ve lo leggo così com'è, quindi un tema imposto di Pinar Selek, sociologa femminista antimilitarista turca, e dice: tema, il massacro degli armeni non c'è stato. Nome, cioè chi l'ha fatto, poco importa. Età, molto piccola. Soggetto, dimostrare che il massacro degli armeni non c'è stato. Scuola, non importa quale scuola affiliata all'educazione nazionale turca. Data, giugno 2003. Obiettivo, essere la prima, essere apprezzata, ricevere una ricompensa. E inizia il temino, che si intitola Portati via dal vento, ingoiati dall'acqua. Allora, per iniziare, non c'è stato un massacro degli armeni in questo paese. Io non l'ho mai visto. Non ho mai avuto amici armeni. Inoltre, non l'avrei voluto. Pare che siano molto tirchi. È stato il nostro professore di classe che ce l'ha detto. È un signore erudito che sa molte cose. Quale sarebbe l'utilità di avere un compagno che non mi presterebbe la sua matita o la sua gomma? Chi erano gli armeni? Come vivevano? Nessuno lo sa. O forse, come raccontavano i nostri anziani, erano una sorta di guliabani, che sono delle creature immaginarie e cattive dei racconti turchi, questo lo dico io, o delle creature dello stesso genere. Io, quando sento la parola armeno, mi fa paura. Per fortuna che non esistono. Se esistevano, avrebbero potuto divorarci tutti. È il nostro professore di storia che l'ha raccontato. Gli armeni sarebbero dei terroristi. Avrebbero voluto nuocere all'unità di questo paese. E ora vogliono opporre i turchi tra loro, pretendendo che ci sia stato un massacro degli armeni. Il nostro professore di storia ci ha spiegato che la parola ermeni, che sarebbe armeni in turco, aveva la stessa radice della parola terrorist. Le due contengono la parola er, che significa soldato in turco, aggiungo io. Quindi er è una nozione legata all'esercito. Essa stessa legata alle uccisioni o ai massacri. Certamente io non parlo qui dell'esercito turco, i soldati turchi non uccidono nessuno, i soldati turchi adorano i piccoli e rispettano i vecchi, mentre gli armeni, loro, se la prendono particolarmente con bambini della nostra età. Prima li violenterebbero e poi berrebbero il loro sangue. Entrano nei miei incubi come dei giganti con enormi teste e un solo occhio. Prima avevo paura dei guliabani. Adesso non ci credo più. Forse quando sarò più grande, nello stesso modo, non crederò più agli armeni. Ho interrogato mia madre e mio padre su questo. Non mi hanno detto niente. Mio nonno neanche. In più, quando ho chiesto a mio nonno, lui si è arrabbiato. Non ci sono armeni. Chi ti ha raccontato questo? Che non senta più questa parola uscire dalla tua bocca. Allora io, una volta finito questo tema, non pronuncerò mai più la parola armeno. Si dice che il villaggio di mia madre un tempo appartenesse agli armeni. Una volta mia madre si è lasciata scappare questa storia e io le ho chiesto: non avete avuto paura? E se i loro fantasmi vi divoravano? Questo mi è valso uno schiaffo. Mia madre non mi picchiava mai, infatti lei non è armena. Ma quando si accenna a questo, lei si innervosisce. Il nonno di mia madre è arrivato in questo villaggio da un altro posto. Quando sono arrivati, il villaggio era abbandonato da molto tempo, nessuna traccia di armeni né di chiunque altro. La storia di questo villaggio risale all'epoca degli Itti. È scritto nei libri di storia. Dopo gli Itti sono arrivati i Seljuqides, poi gli Ottomani e alla fine la Repubblica. Cosa sono diventati gli armeni? Sarebbero spariti. Ci sono dei rumori come se fossero esistiti nel passato. Ci sarebbero delle leggende che li rappresenterebbero come delle creature per far paura ai bambini. Ma i bambini, crescendo, hanno capito che non sono che delle storie. Noi non li abbiamo massacrati. I turchi non farebbero male a una mosca. Non sanno neanche maneggiare le armi. Proclamano senza fermarsi: pace nel paese, pace nel mondo. E distribuiscono fiori a tutto il mondo. Perché avrebbero dovuto uccidere altre persone? I turchi sono fieri, lavoratori e fiduciosi. Che felicità per chi si dice turco. Nessuno si esprime sul massacro degli armeni. L'altro giorno sono andata a trovare un amico. Suo padre mi ha detto che gli armeni hanno cambiato nome e hanno adottato il nome del PKK. Mi ha raccontato dei massacri perpetrati dal PKK. Ho pianto molto. Avrebbero pattuito con il diavolo e opererebbero per distruggere questo paese. In realtà sono loro che ci hanno massacrato. Hanno preso le loro sciabole, ci hanno attaccato gridando Allah, Allah. Bambini o no, ci hanno tagliato la gola. Hanno violentato le donne e se ne sono tenute alcune per loro e hanno venduto le altre. Non hanno lasciato nessun turco in questo paese. Hanno pianificato un genocidio. Hanno spogliato le nostre terre e hanno confiscato le nostre proprietà. E poi Allah li ha puniti. In un attimo li ha mandati all'inferno. Come nei racconti ci sarebbe stato un miracolo e noi saremmo resuscitati. Uscendo dalle nostre tombe avremmo riniziato a rivivere. Un principe sarebbe venuto a baciarci per svegliarci. Una buona fata avrebbe guarito tutte le nostre ferite e da lì questo paese paradisiaco ci appartiene. Allora, gli armeni sarebbero stati portati via dal vento e inghiottiti dalle acque. E questo è un articolo che è stato pubblicato nel giornale turco Yeniden Özgürgünden il 10 giugno del 2003, ma è molto indicativo, insomma, di questa situazione. Anche per ricordare, soprattutto in questo periodo si parla tanto di unità d'Italia eccetera, che poi gli stati e le nazioni nascono sullo sterminio magia, di no, poi nascono molto su il dover eliminare proprio fisicamente tutti quelli che sono le cosiddette minoranze. Insomma, lo spot che la radio addirittura sta facendo è proprio sul ricordare i briganti, no, che sul concetto di unità d'Italia sono stati tutti quelli che non gli andava bene e sono stati, insomma, uccisi e eliminati da questo paese, tanto perché si parla di 150esimo anniversario, c'è stata fatta anche la festa nazionale. Io direi che noi stiamo quasi per volgere al termine, sono le 14 e prima di ascoltare la canzone per Pinar diamo un po' dei contatti. Sì, allora intanto in conclusione volevo dire due ultime cose, che malgrado quello che subisce Pinar, comunque lei ha sempre viva la speranza nei cambiamenti e non ha mai smesso di lottare per un mondo differente. Tra l'altro avevo portato alcuni righi, un estratto appunto di un suo intervento al convegno Donne del Mediterraneo, perché dovete sapere che Pinar è stata a Roma nel 2007 a partecipare appunto a questo convegno e aveva portato diciamo un intervento chiamato Una prospettiva transculturale in resistenza alle guerre e alla globalizzazione. Allora vi volevo leggere un piccolo estratto che era molto carino e dice questo. Sappiamo che il Mediterraneo è il teatro di grandi conflitti, ma anche il centro di una grande speranza. Se diamo vita a questa transculturalità, questa potrà irradiare su tutte le rive. Il terribile livello del patriarcato forza il movimento femminista a riprendersi. Creiamo un respiro comune, un respiro mediterraneo di cui la potenza darà la forza a tutte le donne. Facciamo di quest'onda femminista la possibilità di cambiare il clima mondiale. E questo è questo estratto. Ce ne sarebbe bisogno. E invece rispetto ai contatti, infatti invitiamo a scriverci sia per segnalarci articoli o anche per avere informazioni, qualsiasi cosa vi pare. Le mail del Comitato d'Italia è solidarietapinarselec.italia, vi ridico, poi @gmail.com, allora senza accento, e Pinarselec è con la K. Vi faccio lo spelling? Non c'è Pinar, non c'è normale. Solidarietà Pinar Selec punto Italia chiocciola gmail.com. Poi stiamo costruendo un blog, quindi poi ne daremo notizia. Su uno blogs, quindi che si chiamerà sicuramente pinarselec.noblogs.org. Però poi lo daremo precisamente. Sì. Poi vi segnaliamo anche il sito francese, perché è veramente, tutto diciamo, sì, sempre aggiornato. Ci sono documenti in francese, in inglese. Quindi se e poi è facile il link. Sì, ed è http pinarselec.fr. Molto semplice, pinarselec.fr. Comunque se cliccate Pinarselec su Google è il primo anche che vi esce fuori, sì, quindi. E poi diamo quello poi c'è appunto, andate a firmare la petizione, perché siamo sono a 60.000 firme, però non si fermerà questa raccolta di firme, ed è www.ps-signap.de. Quindi vi invitiamo anche ad andare lì. E poi l'ultima cosina, vi volevo leggere, abbiamo fatto la traduzione della canzone che ascolterete tra poco in chiusura, perché è carina e ci sembrava, insomma, carino farvi sapere cosa dice. Dice: "Ehi sister", questo è il titolo, "Ehi sorella", dice: "Ehi sorella, perché la tua casa è così vuota? Torna a casa stanotte. Il grande padre non fa ridere perché ha una pistola, però siamo tante ragazze forti. Ehi sorella, sarai libera sorella, non ti preoccupare sorella, noi siamo insieme". Poi c'è una piccola frase in turco che dice: "Tutto per la pace", questo perché in Turchia c'è uno slogan dello Stato che dice "tutto per la guerra". E poi dice: "Ehi sorella, l'incubo è finito, accendi la luce, il grande padre oggi è fuggito, la giustizia è in cammino e sappiamo che abbiamo ragione. Tutto per la pace", questa canzone per Pinar. Allora, noi terminiamo questo redazionale per Pinar Selec, continueremo ovviamente a parlare di lei, perché la situazione non è finita, è anche un modo, insomma, per parlare di solidarietà internazionale, di sorellanza, ma anche di conoscere e scoprire, insomma, quello che anche altri collettivi, gruppi femministe fanno anche molto vicino a noi, perché insomma la Turchia è molto vicino a noi. E io vi ringrazio tantissimo e ciao. Ciao e vabbè. Vorrei anche salutare Pinar, che magari poi gli manderemo il link, e anche tutte e tutti gli ascoltatori, concludendo con l'ultima frase che è diventata, diciamo, un po' la nostra lo slogan: la sorellanza è un'arma. Pinar Selec non è sola. Sister, do not worry, sister, we are together. Hey, say, buddy, chin, chin, boost up. have no class.